Ciao, eccoci. Allora, visto che non sono molto brava nelle presentazioni, leggerò questo primo pensiero che volevamo condividere e anche la presentazione di Barbara Curtarelli. Siamo l'APE, l'Associazione Proletaria Escursionisti, e stasera presentiamo quella che è la sua prima parte di vita, divisa in due, quindi pre-Seconda Guerra Mondiale e post. Però iniziamo da quello che ho scritto, così non mi perdo. Allora, viviamo in un tempo segnato dalle mille e più contraddizioni e non siamo cieche a quello che accade nel mondo. In un contesto globale segnato dalle guerre e instabilità, in un momento storico in cui il genocidio in Palestina continua a devastare una popolazione innocente, mentre qui una politica miope si preoccupa più di limitare la libertà di espressione e di manifestazione che di garantire diritti e dignità. E intanto taglia risorse alla cultura e ne condiziona i contenuti. Sentiamo il bisogno di prendere parola. Parola anche sulla montagna. Nel 1921, quando nasceva l'APE, la montagna era ancora un luogo da esplorare e da conquistare. Oggi, nel 2025, la devastazione delle terre alte prosegue sotto nuove forme e lotte per le più e lotte per difenderle, come ci hanno ricordato prima, i ragazzi di Terre Alte. L'APE nasceva in un tempo di forti tensioni sociali e politiche, come lo spazio di libertà e di incontro, di accesso collettivo alla natura e di costruzione di immaginari altri. Oggi, nel nostro piccolo, ci riconosciamo in quello che è stato lo spirito: unire il camminare al pensare, lo stare insieme alla voglia di cambiare le cose. Questo è uno dei modi in cui cerchiamo di fare politica attiva dal basso, anche solo un passo alla volta. Stasera parliamo dell'APE storica con Barbara Curtarelli, laureata in storia all'Università Statale di Milano e socia dell'Archivio Bergamasco. Si occupa da anni di ricerca locale e con particolare attenzione a persone, vicende e contesti del nostro territorio. Si è avvicinata alla storia dell'APE mentre collaborava con l'ISREC, l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza, a cui si erano rivolti alcune apeini, quindi i nipoti in realtà di quelli che erano stati le apeine e gli apeini storici, per costruire e valorizzare la memoria storica. Quindi, già ho fatto un preambolo molto lungo, un po' borioso e me ne scuso. Ti lascio la parola per chiederti com'è nata l'APE nel 21 e soprattutto, visto che abbiamo detto che siamo in un momento politico e sociale abbastanza, controverso, qual era il contesto politico e sociale in cui è nata l'APE Bergamo, l'APE nazionale e l'APE Bergamo in particolare? Beh, il contesto era decisamente diverso da quello di adesso, ma anche degli anni immediatamente precedenti. Infatti, l'APE nasce appunto come, anzi, inizialmente nasce come AAAPE, cioè ci mette anche l'aggettivo antialcolica. Perché? Perché diciamo che l'attività, i pochi momenti liberi del proletariato o comunque di tutti i lavoratori non dell'agricoltura o anche nelle poche fabbriche che c'erano, era mo molto poco. Infatti fino al 700 erano soltanto i ricconi che andavano in villeggiatura nelle ville. Nell'Ottocento incomincia la borghesia a avere dei momenti liberi, in realtà il proletariato incomincia a avere dei momenti, delle giornate, una giornata libera, soltanto dal Novecento. Però bisogna dire che la società italiana e bergamasca, naturalmente, era una società fondamentalmente agricola e quindi in agricoltura i momenti liberi, soprattutto allora e fino a tutti gli anni, inizio anni 50, erano molto pochi. Semmai qualche ora, e quindi quelle poche ore, naturalmente solo gli uomini, li passavano nelle osterie, perché poi il vino era appunto uno strumento di socializzazione tipico della società contadina, nelle osterie tutto erano, come dire, erano calde e quindi trovavano anche momenti dove stavano bene senza dover loro spendere. E poi erano luoghi dove si giocava e tutto, però solo qualche ora. All'inizialmente anche i partiti delle sinistre, i socialisti e tutto, hanno approvato questa, le osterie, i momenti in osteria come momenti di socializzazione. Però appunto erano questi momenti erano limitati a qualche ora per chi stava i contadini, mentre diciamo i lavoratori delle industrie godevano di una giornata praticamente libera. Andando avanti però ci si è accorti che nelle osterie in realtà i lavoratori proletari erano, non, per loro era una, come dire, un momento, diciamo così, di perdizione, nel senso che nell'alcol affogavano le loro frustrazioni e certo non erano stimolati a elevarsi. E quindi soprattutto con lo sviluppo delle attività industriali e quindi di più tempo libero per il proletariato, anche da parte socialista oltre che da parte cattolica, che sempre c'era stata una condanna moralistica delle osterie, si incomincia a capire che l'osteria non era il posto più adatto per i lavoratori, perché invece che elevarli, lì appunto li gettava ancora in una maggiore prostrazione. Iniziano così a fare queste campagne antialcoliche e poi soprattutto grazie al fatto che c'era più tempo libero cominciano a preoccuparsi di come fargli occupare in modo utile questo tempo libero e nel 1910 nasce la prima associazione legata al Partito Socialista, l'UEI. L'UEI che aveva appunto come scopo quello di aggregare il proletariato e di condurlo in ambienti sani, tipo appunto le colline, le montagne, aggregandolo e facendo sì che queste gite fossero, oltre che ritrempare il fisico, fossero anche, migliorassero le persone, avevano scopi educativi, di emancipazione, di educazione ai valori socialisti, educazione alla libertà, alla solidarietà. Però ecco, l'UEI non nasce, pur essere nata nell'ambiente socialista, era un'associazione apolitica, voleva essere un'associazione apolitica, infatti il suo stendardo, il suo guerrier detto era azzurro e pianin pianino non c'era la pregiudiziale proletaria, ma era aperta un po' a tutti. E pianin pianino diventa un po' una società, un'associazione diciamo anche borghese, e che si apre alla collaborazione anche col CAI, che era un po' l'associazione d'élite dell'escursionismo, anche se tiene sempre il carattere popolare. Per esempio il CAI faceva pagare la tessera annuale 12 lire, l'UEI 25 centesimi. Però sempre in ambiente socialista incominciano le critiche, perché appunto c'è stata questa contaminazione con elementi borghesi. Quindi dopo la guerra, diciamo i socialisti più massimalisti fondano l'APE. L'APE che nasce appunto il 7 novembre del 2020, anniversario della rivoluzione d'ottobre, nasce con un gagliardetto rosso, il simbolo della rivoluzione, nasce con l'esclusiva di essere solo un'associazione proletaria, aperta solo ai proletari, e che non avrebbe tollerato collaborazione con altre associazioni. Nasce sempre però con le stesse caratteristiche, cioè di avere un carattere emancipatorio per il proletariato, un carattere educativo e soprattutto non voleva per i suoi ideali di solidarietà e di aiuto fraterno assolutamente antiagonistica, non era per niente, non voleva essere agonistica. Si basa soprattutto sulle escursioni, perché il momento dell'escursione era un momento di socializzazione molto forte e non era un momento, un'attività che come ciclismo o il calcio era a parte molto agonista, ma era anche, come dire, la maggior parte delle persone avevano più un atteggiamento passivo nei confronti di quegli sport. A Bergamo nasce quasi subito una delle prime sezioni, l'8 marzo del 1921, presto diventerà una delle associazioni di punta Un'altra associazione che apre quasi subito dopo la fondazione è quella di Lovere, che era un comune, una delle poche amministrazioni della Bergamasca, con un'amministrazione socialista. E ha questa caratteristica di avere fare molte escursioni a carattere familiari. E un'altra cosa molto positiva, che si vede anche qua nel libro, tutte le escursioni fin dall'inizio sono immortalate da fotografie. E non è una cosa usuale, perché non era semplice nei primi anni 20 andare in montagna, uscire dagli studi, usufruire della luce naturale con il vento, le nuvole e poi soprattutto come qua con le persone in posa su uno sperone di rocce, quindi anche il fotografo che doveva mettersi. Il fotografo era Umberto Preda. Però sono tantissime le fotografie, soprattutto le foto di gruppo, per significare la gioia di queste persone che si ritrovavano e andavano cantavano le canzoni socialiste, parlavano degli ideali socialisti e per far vedere anche la forza di questo movimento nella Bergamasca. E una delle prime gite importanti è quella, la grande gita proletaria a San Giovanni delle Formiche, un anno dopo della Costituzione, e poi poco dopo ce n'è un'altra a Lovere dove sono ben 600 apeini bergamaschi, che è un numero direi molto considerato, che poi Bergamo non era certo una zona rossa, perciò voglio dire erano tante persone. E quindi ecco, si ritrovano, qua ci sono tantissime fotografie. Questo libro è stato fatto perché verso il 2000 i figli o anche gli ultimi rappresentanti dell'APE volevano che fosse nota la loro storia e avevano conservato tutto in una cassa, in un baule. Tante fotografie, documentazione solo però dal secondo dopoguerra, perché quella del primo dopoguerra non c'era quasi più niente, anche perché bisogna dire che dopo le leggi speciali del 26 l'associazione era stata sciolta ed era stata anche perseguitata. Perciò per riuscire a reperire il gagliardetto socialista hanno dovuto fare delle grandi manovre. E quindi ecco, e quasi tutte le fotografie le abbiamo messe, sono molto belle. Le notizie sull'APE dei primi tempi le ho ricavate dai libri, dai giornali della Camera del Lavoro del Tempo, la FIACCO, l'Azione Proletaria, perché l'APE aveva una propria rubrica in questi giornali. Nel 22 purtroppo sono state chiuse questi giornali. Però, diciamo, dal 22 al 26 c'erano i ricordi, c'erano notizie sulla rivista dell'APE nazionale e poi un po' i ricordi anche, dei vecchi apeini. Grazie, ridevo giusto l'altro giorno, domenica siamo andati in gita ai Cinque Laghi di Valgoglio e appunto, visto che per questo evento volevo fare un paragone sulla grafica fra le nostre fotografie e le loro, ho iniziato a spulciare quelle che erano le fotografie che sono pervenute ed effettivamente notavo questa cosa che noi abbiamo tutte fotografie, a parte quella con la bandiera a fine gita, sono tutte fotografie in movimento in cui mentre noi camminiamo qualcuno dice vabbè faccio una fotografia e mi sono resa effettivamente conto di quanto fosse complicato fare le fotografie negli anni 20 e che sono delle testimonianze veramente importanti. Dicevamo appunto che nel 26 APE si scioglie per tutta costretta a sciogliersi perché resiste in realtà fino al 26 perché non aspetta che ti perché tutta una serie di altre associazioni, fra le quali il CAI, effettivamente poi confluiscono in quelle che sono le associazioni fasciste o comunque tutte le persone aderiscono alle associazioni fasciste, mentre le apeine e gli apeini si rifiutano. E ti domando, cosa è successo in quel periodo? In particolare nel libro dici che per tanti e tanti apeine durante il periodo del fascismo è stato anche complicato trovare lavoro, perché essendo marchiati come ex apeini, quindi come persone che effettivamente appartenevano a un movimento politico contrario al regime, spesso hanno dovuto anche nascondersi e darsi manforte fra di loro, trovando una fratellanza che, come sappiamo, è stata fondamentale per il mantenimento delle apeine e degli apeini. Niente, se hai voglia di raccontarci un po' com'è stato questo periodo. Ecco, di questo periodo appunto sappiamo, grazie alla testimonianza di alcuni, bisogna dire che l'Ape Bergamo era formata da grandi famiglie, le famiglie degli Stefanoni, i Meli, Maladosa, Corna, Colnago, e purtroppo appunto molti apeini non accettavano di prendere la tessera fascista, e quindi tantissime cose, tanti lavori non potevano farli, o anche se non era obbligatoria la tessera, però se non l'avevi, o per la fama degli apeini, non ti prendevano. E allora c'era la famiglia Meli, che aveva un'officina e che quindi aiutava come poteva alcuni apeini che proprio si trovavano in ristrettezze economiche. Poi bisogna anche dire che, come tutti i cosiddetti sovversivi, in occasione di venute a Bergamo di personalità politiche, erano tutti arrestati e presi, passavano la notte in guardina, perché appunto considerati pericolosi. Bisogna anche dire che poi durante la resistenza diversi apeini si sono messi al servizio della resistenza. Gli Stefanoni avevano la stamperia e stampavano i volantini clandestini. Altri si sono messi al servizio delle bande partigiani per far conoscere i vari sentieri. E poi, e uno di loro, non mi ricordo, un Meli mi sembra, che faceva parte della banda intorno oltre il colle, è stato anche arrestato. Naturalmente poi, subito dopo la guerra, già nel giugno del 45, l'Ape Bergamo è risorta. Sì, perché questa serata è nata un po' per caso, perché vabbè, Isrek aveva alcuni di questi libri e doveva liberare dei locali, quindi ci ha contattato per chiedere se li volevamo. Un po' nel rileggere il libro, effettivamente il 17 giugno del 45 è stata la prima gita post resistenza, quindi ci sarebbe piaciuto fare un evento il 17 giugno, ma eravamo di ritorno dal campeggio nazionale, quindi era tutto un po' complicato. Quindi durante la resistenza Ape resiste internamente con dei fenomeni di fratellanza e sorellanza, e poi nel 45 già appunto rinasce. Anche qui comunque possiamo dividere la seconda storia di Ape in più o meno due macro momenti. Quindi c'è un primo momento di rinascita e poi c'è un secondo momento in cui le persone... un momento di declino, ma di mezzo c'è un momento in cui riescono le persone dell'assemblea a coinvolgere qualche giovane, ma soprattutto iniziano a diversificare il modo di vivere la montagna. Un po' vuoi la tecnica che era evoluta e un po' invece anche la voglia di diversificare proprio il vivere la montagna. Cosa succede nel dopoguerra ad Ape? Allora, inizialmente diciamo che rinasce come ripartendo da dove aveva finito, e le prime escursioni sono molto semplici, come sempre familiari, nei posti intorno a Bergamo. Considerate che fino alla fine degli anni 40 le strade erano distrutte, la gente era molto povera, perciò facevano mete vicine da raggiungere o a piedi. In bici era già difficoltoso, oppure dopo c'era anche un camion mezzo mal ridotto, come si chiamava, aveva un nome, qualcosa proletario, che lì che però era così mal ridotto che spesso li lasciava a piedi. Perciò magari racconta un testimone di una gita: sono andati, non so se oltre il colle, fino oltre il colle è arrivato, era l'ultimo dell'anno, però da oltre il colle a Bergamo se la sono fatta l'ultimo dell'anno tutta a piedi, perché li aveva lasciati il torpedo proletario, si chiamava una cosa del genere, insomma un camion scassatissimo. Però ecco, il clima però era diverso, quindi verso la fine degli anni 40 i giovani, all'inizio ha ripreso coi vecchi, poi i giovani figli avevano voglia di divertirsi, adesso uno diceva divertirsi, no, però insomma volevano un po' tralasciare l'aspetto prettamente politico e più di ricreativo. E quindi, vabbè, certamente andavano in giro, però pianino la pregiudiziale politica è venuta sempre meno. Tanto che a un certo punto, questo più avanti, negli anni 50, si è pensato anche di togliere l'aggettivo proletario e mettere popolare. Allora, è stata una cosa, per due volte è stata votata il fatto di sostituirlo, però per due volte davanti al pianto dei vecchi apeini hanno deciso di lasciare il nome proletario e perciò ha continuato a chiamarsi proletaria. Il fatto che poi nel dopoguerra c'era, vabbè, il periodo della guerra fredda, le divisioni all'interno della sinistra avrebbero potuto portare a divisione anche tra gli epeini. In realtà si è cercato di diminuire questo elemento politico proprio per avvicinare più possibile l'APE a tutte le persone, tenendo come unica pregiudiziale quella antifascista, cioè si potevano iscrivere tutti, però doveva essere tutti naturalmente che accettavano gli ideali antifascisti, passato antifascista. E quindi dopo, dagli anni 50 in poi, c'è il boom, avvengono molti giovani, si fanno le escursioni, si incominciano però con quelle che poi saranno le attività preparenti, cioè andare anche a fare le gite sciistiche, che all'inizio non sono frequenti perché gli sci costavano, era uno sport insomma costoso, poi pian pianino si svilupperà, ma poi questi giovani approfittano anche, sempre per approfondire l'aspetto ludico, il periodo tra l'attività estiva e quella invernale è sempre un po' un periodo morto, e loro cosa fanno? Organizzano gite in bici, tornei di calcio, di ping pong, tombolate, un coro di apeini. Insomma, così hanno un bello sviluppo. Poi pian pianino si avvicinano anche, dato che la pregiudiziale non era più di essere proprio solo dei partiti della sinistra, si avvicinano e collaborano con le altre associazioni escursioniste. Però questo cosa porta? Alla lunga comporta che si perde il fatto di non essere competitivi, perché nel momento in cui vai in gara con le altre associazioni, non puoi arrivare sempre ultimo e affrontarlo così come facevano loro solitamente, divertendosi con un atteggiamento goliardico. Tanto che si è arrivato a un certo punto che alcuni non andavano neanche al lavoro per prepararsi alle gare, anzi alcuni chiedevano anche un risarcimento all'APE per poter, dato che non erano pagati, per poter stare a casa e fare. Vabbè, lì però già un po' più avanti, negli anni 60. E quindi c'è questo sviluppo. Non mi ricordo più che domanda mi hai fatto. Ma tra l'altro sulla questione proletari e popolari a un certo punto ci siamo interrogati sia come sezione, non tanto perché un po' sì, effettivamente diciamo nel 2025 e nel 2018 quando poi abbiamo riniziato a camminare insieme ci siamo domandati ha senso tenere questo proletari, poi la risposta è stata sì, è una scelta storica e assolutamente vogliamo difenderla, e un po' anche perché effettivamente alcune di noi hanno detto sì, ma io comunque sarei una proletaria nel caso e non un proletari. Poi all'ultima Assemblea Nazionale al campeggio ad Avellino effettivamente è uscito, ci siamo resi conto guardandoci le felpe dicendo ma io ho associazione proletari escursionisti, tu hai scritto associazione proletaria escursionisti, perché? Perché Alberto Del Monte, che è uno degli apeini di Milano, che poi è quello che ha fatto un po' rinascere tutto il movimento, cercando nei vari archivi storici ha trovato alcune lettere e alcuni documenti nei quali non era più proletari escursionisti ma era proletaria escursionisti, quindi abbassa un po' il livello di testosterone nel nome. Ecco, una cosa importante, l'APE quando nasce, non solo c'erano molte donne in una società come Bergamo che era decisamente separatista, e fino agli anni 60 e anche inizio anni 70 c'era una netta separazione dei sessi in ogni ambiente, ma nel consiglio direttivo apeino già negli anni subito c'erano diverse donne ed erano molto attive. Invece nel secondo dopoguerra le donne erano presenti, però non hanno mai assunto livelli dirigenziali. Cito testualmente: alcune signorine che con la loro presenza rendono le gite ancora più allegre. Vabbè, comunque. Una seconda invece azione molto importante che avviene nel secondo dopoguerra è quella dell'alveare Apeino. Quindi si cerca una casa per l'ape, non solo per l'ape Bergamo, ma per l'ape che nel nord Italia, e poi effettivamente si era sviluppata anche a Firenze, Roma e Napoli, se non sbaglio, nel nord Italia voleva avere una casa, un tetto. Ma quindi insieme all'ape Lecco si mettono, non è che lo trovano il tetto, lo costruiscono e l'ape Bergamo in questo ha un ruolo veramente importante. Che cos'è l'alveare Apeino e qual è stata la storia dell'alveare Apeino? Allora, già negli anni 20 volevano comprare ai piani Resinelli, avevano individuato come zona comoda per Milano, Lecco, così. Solo che poi avevano forse anche comprato un terreno, ma poi per colpa delle persecuzioni fasciste hanno dovuto venderlo. Nel dopoguerra ritornano, fanno una cooperativa tra tutti i soci e letteralmente l'alveare Apeino è stato costruito da tutti i soci, da togliere le sterpaglie, a fare le fondamenta, a tirare sui muri all'inizio e poi a turno. Tutte le sezioni gestivano gratuitamente, tutto gratuitamente, hanno fatto tutto gratis questa casa che all'inizio era solo di un piano e dopo è arrivato due o tre. Anzi, questo libro qua è stato presentato nel 99, nel 2000, non mi ricordo più, nell'alveare Apeino che poco dopo ha chiuso. Però negli anni 70, anche per il fatto che ormai è iniziata la crisi di queste associazioni escursioniste, perché ormai la mentalità era individualista e ognuno tendeva ad andare un po' per conto proprio, e mentre il CAI aveva i proventi dei rifugi che lo tenevano un po' a galla, l'APE si basava solo sulle iscrizioni, quindi non è che. Quindi la cooperativa è andata un po' in crisi e hanno deciso di venderlo alla FIOM di Milano, quindi comunque un'associazione vicina agli ideali dell'ape. Nel frattempo, tra gli anni 50 e 60, l'ape Bergamo, quando era ancora forte di iscrizioni, voleva avere un proprio alveare e aveva individuato Foppolo. Allora, a leggere i verbali, c'era a parte uno che dice: no, Foppolo assolutamente è una zona che non avrà nessuno sviluppo turistico, fa un po' ridere, ma poi giustamente il presidente di allora, uno dei vecchi, fece presente che già Bergamo faceva fatica a sostenere la sua parte per l'alveare Apeino dei piani Resinelli. Figuriamoci da soli costruire e gestire un altro alveare Perino, sarebbe stato impossibile. Vorrei ricordare che l'alveare, quello dei piani Resinelli, è stato progettato da un bergamasco, mi sembra si chiamasse Curti. Quindi, finita la fase di espansione, finito anche la diversificazione delle attività montane, finisce purtroppo anche l'alveare che viene venduto alla FIOM e dopo le marronate, dopo le castagnate e tutto quello che è stata la storia dell'ape, purtroppo nel 78. 79, continuo a sbagliare, non mi piace il 79, chissà perché. Nel 79 si scioglie. Quali sono le ultime cosa ci lasciano gli Apeini di una volta? E niente, poi effettivamente c'è stato un altro puntello che è quello che dicevi tu nel 2020, con un saluto da tutte e tutti gli Apeini all'alveare. Niente. 2000, ho detto io 2020, scusami. Quindi come finisce purtroppo la seconda fase dell'Ape Bergamo? Allora, il libro si apre con la fine dei verbali dell'Ape Bergamo e questo scrivono: sciogliere una società come la nostra non è una cosa tanto semplice. Certo, possiamo mettere tutto in una cassa, come diceva Silverio, in attesa che tra qualche anno qualcuno riscopra la società defunta e la rispolveri. Però in quella cassa noi non ci mettiamo solo le coppe e le scartoffie, ma anche i bei momenti passati assieme sulle vette nei rifugi. E seppelliremo forse anche la nostra amicizia, chiudendoci ancora di più nella morsa della nostra vita quotidiana. Poi ho scritto: oggi la cassa è stata aperta, svelando il suo contenuto di ricordi, risate, emozioni, che da 20 anni giacevano congelati ma vivi nei cuori degli ex aderenti. Direi che questa è una seconda rinascita, sta a voi che non finisca ancora. No, ce la stiamo mettendo tutta in realtà, quindi speriamo di no. L'Ape Bergamo è rinata nel 2018 sulla scia di quello che poi è stato appunto la ricerca di Alberto Del Monte. Ha contattato poi la Palestra Popolare Pacipaciana e alcuni membri hanno deciso nel 2018 di ritrovarsi una sera di marzo in cascina, alla Fucascina, che sempre rimane nei nostri cuori, e oggi siamo ancora qui. Grazie Barbara, non so se ci sono domande dal pubblico, osservazioni, pensieri. Avrebbero dovuto esserci purtroppo dei nipoti di api storiche, ma ci hanno dato buca e si sono un po' tirati indietro, forse spaventati dalla folla. E li ricontatteremo, comunque ci faremo raccontare le loro storie. Quali sono i tuoi piani per il futuro invece, Barbara? Io ho appena stampato un libro sulla storia delle donne bergamasche dal 45 al 2000, che tirarlo su, grazie che è questo, e sarà prossimamente nelle librerie. Poi io mi occupo di diverse, sono una ricercatrice storica. Perciò adesso in ballo la storia del comune di Almendo San Bartolomeo dal 45 a oggi. Sto preparando uno studio su Don Beppo Vavassori, che è stato un prete sociale, un prete resistente. È stato il settimo, quando è stato aperto l'ISREC, che allora si chiamava Istituto e Movimento di Liberazione di Bergamo, è stata la tessera numero 7 o 9, mi ricordo. È stato uno dei preti, anche lui incarcerato durante la guerra. Mi sto occupando delle ricerche su di lui. Su di un prete fascistone invece, Don Giovanni Antonietti, su di Ponteselva, che purtroppo è stato fascista, purtroppo, anche nel dopoguerra, e purtroppo si cerca di non farlo sapere. Adesso speriamo che con gli studi esca fuori tutto e poi si vedrà. Grazie mille. Quasi. Vi ricordo alcune cose. Uno, domenica Terre Altre, all'interno che è il collettivo che sta lottando contro il collegamento con le Rizzola, all'interno del Festival di Rama organizza due camminate, una che parte da Teveno e una che parte da Lizzola. Ci sono ancora posti se volete partecipare. Da una parte ci sarà un geologo, dall'altra parte un naturalista, e quindi la camminata sarà accompagnata dai racconti di quello che effettivamente vediamo intorno a noi. Sempre Terre Altre invece il 5 luglio organizza un nascondino per adulti, quindi a squadre, anche questo all'interno del Festival di Rama. Vi invitiamo a scrivervi come squadra, se non sapete come chiamarvi potete chiamarvi Ape. Cos'altro dire? Se volete, abbiamo alcune copie dei libri che l'ISREC ci ha donato e che andranno a sostenere le attività di Ape Bergamo, ovviamente, e abbiamo anche dei bellissimi posaceneri, anche se, come mi hanno fatto notare, una peina che fuma non si può vedere, ma invece noi ci teniamo a non sporcare in giro e abbiamo creato dei bellissimi posaceneri portatili per non sporcare dove andiamo. E basta, devo ricordare qualcos'altro? No? Perfetto, grazie Barbara e grazie a tutte e a tutti. La bandiera, non ce l'ho. E poi era l'over e non era Bergamo. C'era stato dato. Sì, no. Dici, Michi. Allora, la domanda è sul coro storico dell'Ape. Adesso passo il microfono a Barbara, che magari sa qualcosa o vuole cercarlo nel libro. Allora, per essere più precise, aspetta, perché ho anche il nome di chi l'aveva creato, ma... Comunque acquistare il libro... Aspetta. Dammi pure il microfono mentre cerchi. Sì. Allora, in caso. Scusate, in tutto questo io non ho ringraziato la Crotta e Maite per averci ospitato. No, adesso lo cerchiamo, Miki, poi ti rispondiamo. E lasciamo il palco ai Lapis, che non so se si mettono qui o cosa, ma adesso ci organizziamo e lasciamo il posto ai canti popolari. Grazie a tutte e tutti. Gliel'ho detto dei libri, sono qua. Parlate con Anna, tira sul braccio. Perfetto, ciao. Sì, ti mando. Mando le uscite.